La Casa delle Donne Luce Chiesa è un'esperienza che si trova a Roma, è una casa delle donne che nasce nel 2008 da un gesto di riappropriazione o se vogliamo di occupazione di un immobile dell'ATAC, che è la Società del Trasporto Pubblico della città di Roma, una società che è un SPA ma al 100% comunale. In questi 11 anni la Casa delle Donne Luce Chiesa ha attivato un importante e complesso lavoro di contrasto alla violenza di genere, che prevede 14 stanze per l'accoglienza di donne che escono dalla situazione di violenza e l'attivazione di un centro culturale e sociale di aggregazione rispetto alla violenza di genere, che lavora sulla sensibilizzazione ma soprattutto sulla prevenzione con il territorio, con le scuole, con le associazioni. Trovandosi ora l'ATAC, appunto questa società, all'interno di un procedimento fallimentare, intendono alienare tutto il patrimonio immobiliare vendendolo, probabilmente facendo delle aste. Questa cosa ancora non ci è chiara, considerando che a Roma i posti fisici proprio di accoglienza per le donne che escono da situazioni di violenza sono in tutta la città 23, un numero che noi riteniamo assolutamente insufficiente e scarso. Crediamo che un'esperienza come quella di Luce Chiesa, con 14 posti, sarebbe da preservare, perché è un'importantissima risorsa per tutte quelle donne che vivono situazioni di violenza in casa o fuori casa e che cercano un orientamento, un supporto, e che molte devono uscire velocemente dalle mura domestiche. Crediamo che una capitale europea non possa permettersi di avere solamente 23 posti di accoglienza per le donne che escono da situazioni di violenza. Il numero di 23 è stato dichiarato dalla delegata della sindaca Raggi alle politiche di genere, Lorenza Fruci, in una conferenza stampa che noi abbiamo fatto nei giorni scorsi, e alla quale lei in maniera molto disponibile si è presentata, facendoci presente tutta l'insufficienza del Comune di Roma rispetto a questa problematica, perché appunto 23 posti non sono sufficienti. E noi, visto che l'interlocuzione con il Comune e con le istituzioni non si è mai rivelata proficua, abbiamo scelto di fare un passo avanti, di fare un passo anche di immaginazione, di coimmaginazione, e di lanciare Luce alla Città, che è un comitato di appoggio all'esperienza di Luce Chiesa, e che intende, fra le varie, tra i propri obiettivi, quello di diffondere questa esperienza importante e creare un fondo che permetta alla cittadinanza, a questo punto, a tutto il comitato, di acquistare l'immobile. Una sorta di azionariato popolare, insomma, per... Sì, diciamo che siamo ancora all'inizio, abbiamo avuto il sostegno di Federica Giardini come presidente, di Lea Melandri come presidente onoraria, il supporto di Silvia Federici, ci sono dei gruppi di soci di Banca Etica, in particolare del Lazio, che ci stanno appoggiando, portando proprio questo progetto all'interno di Banca Etica per trovare forme di finanziamento. Con loro stiamo progettando di partire una raccolta fondi su produzioni dal basso, quindi stiamo cercando di attivare una serie di strumenti e meccanismi che ci permettano di far sì che questo sogno diventi possibile, perché Roma non può permettersi di perdere la Casa delle Donne Luce Chiesa. Visto che Luce Chiesa non è la prima struttura antiviolenza, insomma, che viene messa in bilico, in pericolo dall'amministrazione, voi avete avuto modo di interloquire con l'amministrazione, chiedere magari uno spazio alternativo o c'è stata chiusura? Dunque, noi sono circa 2 anni che abbiamo chiesto al Comune di Roma, alla Giunta, l'apertura di un tavolo che possa trovare delle soluzioni alternative, delle possibilità di regolarizzazione, che possa in qualche modo appunto trovare la strada per far sì che un'esperienza come Luce Chiesa non finisca nel nulla. Questi tavoli in questi anni si sono insabbiati, perché poi non sono state trovate delle soluzioni e al dunque hanno smesso di contattare, hanno smesso di convocare i tavoli, e l'ultimo doveva esserci in aprile, cioè è stato cancellato la mattina stessa senza alcuna riconvocazione da aprile fino ad oggi, e l'unica certezza è che l'ATAC intende alienare l'immobile e lo vuole fare vuotandolo delle persone che ci sono dentro e quindi sgomberandolo all'atto pratico. Dal Comune nessuna risposta, solo quello che ci ha portato la delegata della sindaca Fruci sabato in conferenza stampa, dimostrando una sostanziale mancanza di soluzione a questo problema. Il 15 settembre hanno minacciato di staccarvi Le utenze, giusto? Sì, diciamo che hanno dichiarato che il 15 settembre potrebbe essere la data dalla quale le utenze appunto non verranno più garantite. Non sappiamo cosa succederà fra una settimana, staremo a vedere. Noi in questa settimana abbiamo, insomma, invitato tutte le realtà associative di Roma, ma non solo, a venire a Luce Chiesa, a partecipare alle attività, a fare lì le proprie attività, le proprie riunioni, le proprie assemblee, proprio per dimostrare che Luce Chiesa è uno spazio di tutta la della città attraversato e che sta facendo un lavoro preziosissimo in un paese in cui anche in questi giorni vediamo che una donna ogni 3 giorni viene uccisa dalle mani del proprio compagno o comunque di un familiare, e a questa situazione pericolosa in qualche modo le istituzioni devono dare una risposta, devono trovare dei percorsi di risposta a questo fenomeno, e crediamo che l'UCSS sia una risposta molto preziosa. A proposito dei femminicidi, in questi giorni abbiamo visto che ancora il tema anche culturale è molto importante, le narrazioni della stampa su dei femminicidi insomma sono abbastanza ignobili, diciamolo certo, chiaramente, sì. Quindi insomma strutture come la vostra servono anche sul piano culturale. Sì, noi siamo siamo soprattutto un polo culturale che fa antiviolenza in chiave femminista, e quindi che fa un lavoro di contronarrazione rispetto a quello che i giornali stanno facendo in questi giorni e fanno puntualmente quando una donna viene uccisa in questo paese. Siamo stanche anche di sentire che le donne devono essere sempre vittime di questa situazione. Noi crediamo anche che decostruire questa narrazione di vittimizzazione in cui la donna scappa, in cui la donna cerca rifugio, potrebbe permettere anche quelle donne che sono in difficoltà di sentirsi attive, di avere la possibilità di uscire da una situazione di violenza, e che ci sono dei servizi, ci sono delle realtà che fanno questo, alle quali ci si può rivolgere, alle quali si può chiedere aiuto, e perché è possibile uscire da una situazione di violenza anche uscendo dalla condizione di vittimizzazione.